nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 5 novembre, il sole in regione sorto alle 6.53, tramonterà alle 16.48, la luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Miccoli e Armando Mucchino. I titoli. I cambiamenti climatici hanno avuto già effetti nella conduzione degli orti, prima puntata oggi su un argomento sempre più di attualità. La pioggia di petali d'oro è il titolo del corsivo di Licio Damiani che vi riproponiamo oggi. Anche la coltivazione dei fagioli richiede una serie di conoscenze e accorgimenti. Oggi vi proponiamo un ripasso. Per la rubrica del vino prosegue l'analisi della macerazione dei pigiati con l'estrazione dei tannini. Non ci occupiamo solo di un grande esemplare. Oggi per la rubrica dei grandi alberi, focus sul bosco bandito di Gracco. Dolcetti sfiziosi con al centro le castagne nello spazio della gastronomia. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Con il cambio del clima anche l'orto domestico ne risente e ovviamente si deve adeguare. Affrontiamo questo tema con Costantino Cattivello, tecnico dell'ERSA, vecchia conoscenza di Vita nei Campi che ci ha sempre curato le rubriche dell'orto. Innanzitutto ci faccia capire cosa sta causando questo cambiamento climatico nei nostri orti di casa. Oltre alla sempre maggiore frequenza di eventi estremi con picchi di temperature e minime termiche imprevedibili e spesso fuori stagione, si osservano due tendenze chiare: un allungamento della stagione produttiva e una modifica sostanziale dei calendari di semine, trapianti e raccolte. Ad esempio, per molte leguminose a ciclo primaverile-estivo, penso ad esempio al fagiolo o al pisello, le alte temperature estive, divenute ormai la norma, causano in queste piante un calo drastico della fertilità e di conseguenza della produttività. Mentre nel caso del pisello sono oramai consigliabili le semini autunnali, così da permettere una fioritura e una fruttificazione prima degli innalzamenti termici di fine primavera. Nel pisello, infatti, le temperature moderate esaltano la qualità grazie alla maggior dolcezza e tenerezza dei semi. Nel caso del fagiolo e fagiolino, un ritardo delle semine a metà o fine giugno può assicurare una buona produttività con raccolte fra settembre e ottobre. Per finire va tenuto presente che i trapianti delle orticole autunnali o invernali si possono ritardare e prolungare fino a fine agosto, con buoni risultati. Che influenza ha il cambiamento climatico, parliamo adesso, sul tipo di piante coltivate? Ha una grossa influenza, tanto che adesso si possono coltivare molte varietà che un tempo, a causa di rigori invernali, non era possibile. Negli ultimi 10 anni prove pluriennali condotte dal gruppo di lavoro in orticoltura dell'ERSA ha dimostrato come sia possibile produrre carciofi di ottima qualità in tutta la pianura e anche in alcune zone della montagna. Va anche sottolineato che ora è possibile produrre cavolfiori con maturazione da febbraio ad aprile o finocchi tardivi da raccogliersi fino a fine novembre. Va infine detto che in questi autunni caldi, che promettono la chiusura del ciclo dei radicchi precoci e che non solo non riescono a chiudere il cespo, ma non riescono a cambiare nemmeno il colore delle foglie e ridurre le note amare, una soluzione può essere il ritardo dei trapianti e la coltivazione di tipi più tardivi. I cambiamenti ambientali causeranno anche l'impossibilità di coltivare certe specie che abbiamo sempre coltivato negli orti in Friuli Venezia Giulia? Va detto che diverse evidenze scientifiche supportano quanto vediamo noi agronomi di campo, e cioè un calo costante della produttività di molte specie agrarie ed in particolare modo delle orticole. Ci sono fenomeni come la risalita del cuneo salino che stanno precludendo la coltivazione di diverse specie sensibili ai sali anche in alcune aree perilagunari della nostra regione. È un fenomeno relativamente nuovo per il Friuli Venezia Giulia, con cui però dovremo fare i conti nei prossimi anni. A tal proposito, potremmo prendere spunto da esperienze che si stanno facendo in Sud Italia. In Puglia, ad esempio, stanno uscendo dalla fase sperimentale per entrare in quella applicativa la coltivazione di specie resistenti ai sali e presenti anche nella nostra regione, come il finocchio marino, conosciuto anche con il nome di critmo, o della salicornia. Devo dire che i primi risultati dal punto di vista agronomico sono incoraggianti e va detto che c'è una forte risposta da parte della ristorazione alla ricerca continua di nuove proposte. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, raccolti nel volume Vita nei campi, storie, memorie e leggende della campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi proponiamo La pioggia di petali d'oro, in onda il 15 novembre del 1991. L'autunno fa cadere le ultime foglie, recitavano i versi di una canzone di moda negli anni 50. Erano gli anni in cui Yves Montand cantava la malinconia struggente delle foglie morte sui lungo Senna parigini. È una pioggia fitta in questi giorni di petali o di fragili monete d'oro, come quella che nel finale di un famoso film di quell'epoca, Il terzo uomo di Carol Reed, sulla Vienna del secondo dopoguerra, intristiva la lenta camminata della protagonista, la nostra Alida Valli, nel viale di Tigli Novembrini, accompagnata dall'eco dolente della cetra di Anton Karas. La campagna dunque si va spogliando e l'aria si intride dell'odore acidulo di foglie marcite ammucchiate a terra, che a camminarci in mezzo si leva un fruscio denso. Gli alberi di cachi, messi a nudo negli orti, svelano i globi solari dei frutti e sono l'unica luce nel grigiore dell'aria e nell'ammucchiarsi di muri di cinta e di rustici scuriti. Negli orti si stendono i nylon delle piccole serre destinate a proteggere le verdure dai rigori dell'inverno. Soltanto i filari di verze dalle spesse e resistenti foglie verde azzurro cinerino restano a sfidare a cielo aperto il freddo imminente. Si aprono sempre più ampi slarghi di terra nuda e nelle cantine il vino nuovo sta ancora bollendo. Se andate a spiegarlo ai nostri nonni potrebbero offendersi, ma qui ci pare utile rinverdire le tecniche di coltivazione dei fagioli, lo fa Cristina Micheloni nella rubrica del bio. Come per il pisello, la coltivazione del fagiolo avviene o a livello di ortaggio, quindi su appezzamenti limitati e con tutti gli interventi fatti manualmente, inclusa la raccolta, oppure come coltura a pieno campo e quindi gestita meccanicamente e raccolto secco. Solo per completezza, anche la coltivazione del fagiolo mangiatutto può essere a pieno campo e completamente meccanizzata. Per la coltivazione a pieno campo si usano varietà nane, ovvero che non vanno troppo oltre il metro di altezza e non necessitano di tutori, mentre per le coltivazioni in orto si possono anche utilizzare le tradizionali varietà rampicanti, che hanno bisogno di qualcosa appunto su cui arrampicarsi, quindi o ci si mette dei sostegni, oppure il tradizionale mais. Pensateci, anche nell'orto può essere una bella idea e magari scegliete un bel mais a polenta. Il fagiolo non fa molto il difficile in termini di terreno, basta evitare quelli pesanti e che fanno crosta, cosa che danneggia l'emergenza dei cotiledoni. Come al solito da evitare il ristagno, quindi evitare il calpestamento e preparare con cura il letto di semina. Per l'azoto ci pensano i batteri, quelli che instaurano una specifica simbiosi radicali col fagiolo, in questo caso si chiamano rhizobium. Ma ricordate che il loro sviluppo e la loro attività soffre in presenza di azoto prontamente assimilabile, quello dell'urea o del nitrato ammonico, e di erbicidi e fungicidi. La temperatura a cui si sviluppa più velocemente è attorno ai 13 gradi. Mentre quando il termometro scende sotto i 2-3 gradi la pianta muore, ergo. Vanno seminati quando l'inverno è terminato e siamo certi che le temperature andranno aumentando. Ma anche il troppo caldo non giova al fagiolo, soprattutto alla fioritura e nelle fasi immediatamente successive. Questo è il motivo per cui le zone più tradizionali di coltivazione sono quelle montane, dove si trovano anche le varietà più conosciute e tradizionali. Pensate ai borlotti e tanti altri della Carnia, ai cesarins di Pesaris, al fiorina di Lusevera, solo per citarne alcuni. Durante tutta la coltivazione l'acqua è necessaria, non tanta, ma un po' ci deve essere, quindi se non piove tocca irrigare. Anche qui una precisazione, le varietà più recenti, soprattutto quelle nane che hanno permesso di portare la coltura tra quelle meccanizzabili, sono più tolleranti sia in termini di temperature che di acqua. Rimane comunque la sensibilità alle alte temperature in fioritura, grosso problema in pianura, ma anche problema in aumento in montagna a causa del cambiamento climatico. Ultima cosa, funghi e batteri possono dare qualche fastidio, soprattutto nelle stagioni piovose. Essenzialmente la prevenzione agisce tramite la rotazione colturale e la gestione dei residui. Considerate che ci sono varietà un po' più tolleranti. anche alla ruggine e la sanità del seme deve essere assicurata. In caso, un trattamento coi rameci. Occhio agli afidi, in modo da agire immediatamente alla comparsa. Nella conservazione, tanta attenzione al tonchio, sbizzarritevi con surgelazione, sottovuoto, farina di roccia, ma qui passo la palla a Michela Urbani. Il professor Roberto Zironi continua l'analisi della macerazione dei pigiati e oggi si focalizza sull'estrazione dei tannini. Durante la macerazione, la dissoluzione dei diversi composti fenolici è variabile in funzione del tempo. Nei primi giorni l'intensità colorante cresce, raggiunge un massimo per poi diminuire perché gli antociani sono coinvolti in fenomeni di assorbimento, precipitazione e degradazione ossidativa. Anche i raspi favoriscono questa diminuzione e di conseguenza normalmente il pigiato è macerato senza raspi. L'evoluzione della componente fenolica totale è invece diversa. Dopo una prima fase che dura qualche giorno, in cui l'aumento della concentrazione è molto rapido, si osserva un rallentamento ma nessuna tendenza a una diminuzione. Come abbiamo già visto, per la dissoluzione degli antociani delle bucce non è necessaria la presenza di etanolo e quindi sono i primi ad essere estratti. L'estrazione dei tannini delle bucce comincia più tardi ed è facilitata dall'etanolo prodotto dall'attività fermentativa del lievito. Per l'estrazione dei tannini del vinacciolo è necessario un tempo di macerazione ancora maggiore ed è indispensabile la presenza dell'etanolo per solubilizzare i lipidi della cera che ricopre la superficie esterna dei semi. I tannini delle bucce sono più mobili di quelli dei semi, ma possono diventare amari se la maturazione delle uve è insufficiente. I tannini dei vinaccioli sono più astringenti, ma meno amari. Durante la conservazione e la maturazione dei vini, i tannini giocano un ruolo sempre più importante perché, come abbiamo già visto, reagiscono con gli antociani, portando ad una vasta gamma di pigmenti polimerici. I vini ottenuti con lunghe macerazioni che incrementano l'estrazione dei tannini risultano essere allora, dopo l'affinamento, più colorati rispetto a quelli ottenuti per macerazioni brevi, anche se all'inizio si osserva il contrario. Da queste considerazioni possiamo dedurre che, se interrompiamo la macerazione al raggiungimento della massima intensità colorante, otterremo un vino con un tasso di tannini limitato ma anche di limitata stabilità del colore e quindi vini fruttati di rapido consumo. Una macerazione lunga, invece, permette di acquisire la necessaria ricchezza di tannini per i vini da lungo invecchiamento, commercializzati negli anni successivi a quello di vendemmia, a condizione però che l'uva di partenza ne contenga una quantità elevata e che la loro qualità sensoriale sia buona. Le movimentazioni, mediante rimontaggi, follature delle stage, che non danneggiano l'integrità dei tessuti, favoriscono l'estrazione dei migliori tannini. La fase in cui si effettua la movimentazione influisce sull'estrazione selettiva dei tannini dalle bucce e dai vinaccioli. I primi sono ceduti più facilmente e per primi sono quindi sufficienti per vinificare un vino giovane, ma per ottenere un vino da invecchiamento i tannini del vinacciolo sono indispensabili e questi sono estratti con la movimentazione alla fine della macerazione. I faggi del Bosco Bandito di Gracco, il titolo del contributo di oggi per la rubrica dei grandi alberi del Friuli Venezia Giulia, che ci segue l'ispettore della Forestale, Dario Di Gallo. Le vallate della Carnia, in particolare quelle alpine, sono spesso caratterizzate da fitti e maestosi boschi di conifere, dominati dall'abete rosso con la presenza più discreta dell'abete bianco. In questo dispiegarsi di alberi, i colori dominanti sono quelli quasi cupi del verde intenso. L'attento osservatore, però, a monte di alcuni abitati come Cleulis, Lateis, Timau, Gracco, avrà notato una porzione di bosco che in ogni stagione, con splendide colorazioni, si differenzia dalla betaia che la circonda. Gli alberi in questi casi sono tutti faggi. Vediamo oggi il Bosco Bandito della variopinta borgata di Gracco in comune di Rigolato, all'interno del quale allignano esemplari monumentali molto vetusti, ma il singolo individuo notevole, in questo caso, è assorbito dalla preziosità di tutta la formazione boschiva, che assume grande valore protettivo dell'abitato, tutelandolo dalla caduta di pietre, frane e valanghe di neve. Il faggio è un albero molto diffuso sulle nostre montagne, dal tronco diritto e possente, con la caratteristica corteccia grigia e dalla ampia chioma ovale, con foglie dal verde lucente che in autunno vira nei più sgargianti toni dal giallo al cremesi. Il taglio di questi alberi avviene solo quando assolutamente necessario e dunque viene bandito dal normale utilizzo, assumendo così per le genti di queste vallate un valore affettivo, storico e culturale, in quanto legati alla vita stessa dei paesi che proteggono, tramandando così un patrimonio naturale sempre più raro. Già molto attraente, visto dalla strada statale che collega Comegliens a Forniavoltri, questo affascinante bosco merita una visita, prendendosi senza fretta un po' di tempo lungo il bel sentiero che lo attraversa e che collega le suggestive frazioni di Vuezis, Stalis e Givigliana, piccoli abitati che ci riportano ad un'atmosfera arcaica impregnata di un mondo antico legato alle consuetudini delle nostre origini. Le piante, aggrappate tenacemente al ripido terreno in una ragnatela di radici affioranti, mostrano gloriosamente i bozzi, gli sfregi, le cicatrici inferte nel tempo dagli elementi della natura. Anche Roberto Zotar, nella sua rubrica gastronomica, oggi si occupa di castagne, proponendoci una versione a dolcetto. La castagna, insieme alla zucca, è indubbiamente uno dei simboli dell'autunno. L'ERSA ha scritto tra i PAT, prodotti agroalimentari tradizionali della regione, diverse varietà di castagne. Nelle valli del Natisone troviamo la castagna canalutta, con frutto di pezzatura piccola, e la castagna obiacco, a frutto grosso. Nella fascia prealpina del Pordenonese troviamo il marrone di Vito d'Asio, con frutti che sono apprezzati per la forma, l'elevata pezzatura e le buone caratteristiche organolettiche, mentre nella zona di Polcenigo e nella valle dell'Andre troviamo il marrone striato dell'Andre a pezzatura medio-grossa e la castagna di Mezzomonte. La castagna è ricca di sostanze nutritive, il 90% della sostanza secca è costituito da carboidrati, il 5% da proteine e il 4,5% da grassi. Per questo, in un usuale menù, la castagna andrebbe inserita alla voce primi piatti e non a quella della frutta. La castagna infatti supera le 200 kcal per 100 grammi, mentre la frutta ha un potere calorico che va da 25 a 70 kcal. È addirittura più digeribile dei cereali, contrariamente a quanto credono molte persone che la ritengono pesante. Magari però avevano mangiato caldarrosta fine pasto, non rendendosi conto che stavano ingerendo, dato il loro potere calorico, un altro piatto di pasta asciutta. La castagna quindi può costituire un piatto principale a sé stante, come nel caso della tradizionale zuppa di castagne e funghi. Oggi vi racconto però dei deliziosi dolcetti a base di castagne che la signora Nucci de Braunitzer di Gorizia preparava in questo periodo e che assomigliano a piccole patate con i due tortoli costituiti da pinoli. Sono un ottimo fine pasto, ma anche un accompagnamento per il tè del pomeriggio. Lessate le castagne in acqua e sbucciatele con pazienza. Oggi però le possiamo trovare al supermercato già pronte, lessate sotto vuoto. Passatele quindi allo schiacciapatate e a 300 g di purea aggiungete 100 g di zucchero sciolto a caldo con un bicchierino di rum e una noce di burro. Fate delle palline che rotolerete in biscotti e cioccolato fondente frullati e polverizzati insieme. Mettete poi queste patatine di castagne in pierottini di carta e infilzate 3 pinoli in ciascuna patatina. Buon appetito! Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato attivo con prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 20,60 e 20,90 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,50 e 20 euro. L'orzo peso specifico 62,65 tra 18,60 e 19,10 e la soia tra 41,50 e 42 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 14,10 euro il quintale e la soia di 19 euro. Nel comparto caseario la commissione camerale di Pordenone Udine giovedì scorso ha determinato il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo in ribasso tra 48,50 e 50,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Prezzi stagnanti nel comparto dei foraggi, con un lieve calo per l'abbondanza di prodotto. L'erba medica viene quotata tra 15 e 16,50 euro al quintale, IVA esclusa. Il fieno mazzengo di pianura si paga tra 11 e 12 euro e la paglia di cereali pressata si quota fra 8 e 10 euro al quintale. Dal territorio di Tolmezzo rileviamo i prezzi della legna da ardere, che vengono quotati oggi da 9,50 a 10,50 euro al quintale. Rispetto al mese precedente il prezzo è diminuito di circa un euro. Infine, ancora accenni di pesantezza nel settore degli avicunicoli, con prezzi diversificati. Il valore dei poli a terra varia da 1,37 a 1,39 euro al chilo, IVA esclusa, le anatre da 3,41 a 3,45, i tacchini maschi da 1,70 a 1,72, i conigli oltre 2 kg e mezzo da 2,95 a 3,01 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 19 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Francesco Sioni diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Le piogge che hanno interessato la regione tra giovedì e venerdì scorso sono state molto intense. In molte zone delle prealpi si sono superati i 300 mm e sulla pianura le precipitazioni sono variate dai 50 ai 100 mm. L'episodio è stato accompagnato da venti meridionali molto intensi, che sui monti hanno toccato i 100 km all'ora, con punte fino a 160 km all'ora sul monte Matayur. Anche sulla costa ha soffiato scirocco forte, seguito poi dall'imbeccio sostenuto. Venti che hanno toccato anche i 90 km all'ora, con raffiche sul golfo superiori ai 70 km all'ora per quasi 8 ore. Questo evento, e quello che interesserà oggi la nostra regione, sono gli ultimi di una serie di fronti perturbati che dal 24 di ottobre continuano a portare in regione piogge decisamente intense. In una decina di giorni le piogge totali sono variate dai 100 mm della costa ai 400 dell'altra pianura, fino ai 900-1000 mm delle prealpi. Per la zona prealpina tali quantitativi mediamente si raggiungono in 3 mesi. Per ritrovare un periodo di pioggia così intenso e diffuso sulla regione bisogna risalire a maggio 2021. Il periodo è stato accompagnato sulla costa da mareggiate importanti ed è un episodio di acqua alta molto significativo di 168 cm sopra il livello del medio mare. È la terza volta che un'alta marea così importante si ripete in 5 anni. Per quanto riguarda invece le temperature, l'ottobre appena concluso, assieme a quello del 2022, è il più caldo mai registrato, almeno dal 1990. Da record anche le temperature del mare, di ben 3 gradi sopra la media del periodo, valore che non trova riscontro nelle serie storiche. Passando ora alle previsioni per la settimana entrante, tra lunedì e martedì una saccatura interesserà il nord Italia. Porterà aria molto fredda in quota, ma anche relativamente secca. Aria invece più umida nei bassi strati. Tra lunedì e martedì potremo quindi avere delle piogge sparse sulla regione, ma in genere deboli, localizzate e intermittenti. Da giovedì una debole rimonta anticiclonica dovrebbe invece garantire maggiore stabilità sulla regione. Insomma, sembra che questa serie di profonde depressioni si sia interrotta. Per quanto riguarda le temperature, invece, queste si riallineeranno sulla media del periodo e le previsioni per il momento non vedono per la settimana possibilità di gelate in pianura. La tendenza tuttavia rimane ancora incerta e perciò raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Le stardelle di San Martino dopo 3 dis e pove fin, ovvero la piccola estate di San Martino l'11 novembre, dopo 3 giorni, può avere fine. Coordinamento tecnico di Daniel Apposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.